le 13 in punto. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Il caso della nave bloccata fra Malta e Italia, arrivati a Porto Empedocle, i migranti soccorsi dalla nostra marina militare verso Lampedusa, anche il cargo, l'equipaggio sta male. Conferenza ONU sul razzismo a Ginevra, Israele richiama l'ambasciatore in Svizzera per protesta contro la decisione di ricevere il presidente iraniano Ahmadinejad. G8 dell'agricoltura a Treviso, il ministro Zaia dice è trovato un accordo su sicurezza alimentare e protezionismo. Il dopo terremoto in Abruzzo, nuova giornata di interrogatori, riaprono le scuole non danneggiate, prima sessione di laurea in Tendopoli. Al via a Milano il processo contro i due baristi accusati di aver ucciso un ragazzo nero che aveva rubato dei dolci. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. E da Simone Spezia. Nuova edizione della GR Extra Large. In primo piano il caso della nave turca che 5 giorni fa aveva soccorso in mare nel canale di Sicilia 140 migranti. Il cargo, come sapete, è rimasto bloccato al largo di Lampedusa per un braccio di ferro. Fra Italia e Malta nessuno dei due paesi autorizzava lo sbarco. Il nostro governo ha sottolineato più volte che i barconi dei migranti si trovavano in acque internazionali di competenza maltese per quanto riguarda il soccorso. Ieri è arrivata la svolta. Il nostro governo ha dato il via libera all'attracco. Cristina Carpinelli, allora, quali sono le novità? Che cosa è successo questa mattina? Allora, innanzitutto stanno tutti bene, questo è quanto ci ha detto il capo della protezione civile di Porto Empedocle, che ha assistito agli sbarchi. Stanno tutti bene i clandestini. Gli immigrati sono stati accolti nella grande tenda di Porto Empedocle, che è una tenda di oltre 100 metri quadrati, dove hanno ricevuto cibo, vestiti, poi verranno trasferiti nel centro di accoglienza di Caltanissetta. Poco fa abbiamo appunto raggiunto Maurizio Cimino, che è a capo della protezione civile di Porto Empedocle. È gente che cerca di avere condizioni di vita migliore, ci sono anche poi quelli che scappano dai paesi in guerra, ragion per cui devo dirle che ormai da qualche anno che me ne occupo, è un'esperienza che sicuramente ti lascia qualcosa dentro. E non capisco e non condivido per niente l'atteggiamento tenuto dal governo maltese, a parte il fatto che ci sono degli accordi internazionali, cioè non è possibile lasciare questa gente sulla coperta di una nave per 4 giorni, 5 giorni dopo che già hanno avuto 3-4 giorni di navigazione. Si poteva rischiare anche di avere le condizioni di salute peggiori, quindi li abbiamo trovati in condizioni discrete. Cristina, per quanto riguarda la questione diplomatica, dopo il braccio di ferro fra Italia e Malta di cui dicevamo, si è spostata a livello europeo? Sì, si è spostata a livello europeo e poco fa ha parlato il portavoce della Commissione, Leitenberg, che ha detto che la Commissione non intende entrare nel gioco della caccia ai colpevoli, ma vuole lavorare con tutti i paesi interessati, Italia e Malta in primo luogo, per trovare appunto una soluzione strutturale. Malta in ogni caso esce con le ossa rotte da questa storia, una storia che ha aperto di fatto un nuovo scontro diplomatico tra i due paesi. Il ministro degli esteri Frattini ha lanciato accuse precise alla Valletta, il primo ministro maltese Gonzi però ha sminuito con una battuta di spirito, ha detto è stato un disguido tra amici, la decisione dell'Italia di accettare gli immigrati è stata buona visto che la situazione è degenerata in una crisi umanitaria. Non c'è molto da scherzare, invece, ha detto Laura Boldrini dell'UNHCR, i rischi sono molti, anche tra i rischi che i pescatori non aiutino più i migranti per paura di restare invischiati in storie come questa. Noi ci auguriamo che le ricadute non siano di non prestare più soccorso, questo è il timore che abbiamo, ma abbiamo anche molto fiducia nel senso di responsabilità degli uomini del mare. In sede europea probabilmente si potrebbe lavorare a un documento vincolante per gli Stati che stabilisca le responsabilità di ciascuno, poiché visto che le convenzioni internazionali che hanno avuto anche degli emendamenti non sono stati firmati poi questi emendamenti da tutti gli stati e Malta infatti non li ha firmati, probabilmente a questo punto è il caso di sollevare la questione in ambito europeo. Ecco, questa era appunto Laura Boldrini dell'Alto Commissariato dell'ONU. Ora la missione maltese europea a Bruxelles pare stia preparando un dossier per spiegare agli europei, partner europei, le ragioni della chiusura del governo maltese. Noi staremo a vedere. Grazie Cristina Carpinelli. Noi passiamo da un caso diplomatico, appunto questo fra Italia e Malta, ad un'altra vicenda che sta scuotendo le diplomazie internazionali. Parliamo della conferenza Durban 2 sul razzismo, iniziata oggi a Ginevra e organizzata dalle Nazioni Unite, la conferenza della discordia, viste le defezioni e le presenze imbarazzanti. Il vertice ONU di Ginevra si apre all'insegna di forti tensioni diplomatiche e di grandi divisioni nella comunità internazionale. Le tensioni diplomatiche sono quelle tra Israele e la Svizzera a causa dell'Iran. Gerusalemme ha richiamato il suo ambasciatore in segno di protesta per l'incontro avvenuto ieri tra il presidente elvetico e quello iraniano, il cui temuto intervento è atteso nel pomeriggio. Il timore di quello che Mahmoud Ahmadinejad potrebbe dire ha portato la Francia a far sapere che il suo ambasciatore lascerà la sala se il presidente iraniano pronuncerà accuse antisemite nel suo intervento. Aprendo la conferenza, il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon ha esortato i partecipanti all'unità contro il razzismo. Racism is a denial of human rights, pure and simple. Il razzismo è una negazione dei diritti umani, pura e semplice, ha sottolineato, rammaricandosi per l'assenza di molti paesi. È proprio l'unità che viene a mancare fin dall'inizio, compromettendo il risultato del vertice. Gli Stati Uniti, l'Italia, la Germania, il Canada e l'Olanda sono assenti a causa del testo di dichiarazione finale, al quale hanno lavorato gli Stati islamici, che tende a individuare in Israele l'unico Stato al mondo protagonista di politiche razziste e violente. Violazioni dei diritti umani. La conferenza, in sostanza, è chiamata a discutere un documento nel quale si richiamano le conclusioni di Durban 1 e la condanna di Israele per violazione dei diritti umani. Da mesi Stati Uniti, Unione Europea e molti altri avevano cercato di modificare quel testo, poi hanno gettato la spugna. Un altro punto controverso è stata la proposta dell'Iran di non citare l'Olocausto come esempio principale dei crimini del passato, proposta rifiutata, così come sono stati cancellati molti riferimenti anti-israeliani. Secondo l'Olanda, poi, alcuni paesi cercano di deviare la conferenza per mettere la religione prima dei diritti dell'uomo e negare le discriminazioni contro l'omosessualità. L'Italia, che molto si è battuta per la modifica delle parti anti-israeliane del testo, ha espresso anche forti perplessità sul rispetto della libertà di espressione non sufficientemente garantito. Insomma, l'Unione si è spaccata, gli Stati Uniti hanno boicottato il vertice, gli Stati Arabi sono invece presenti in massa, così come presente è il Vaticano. E la conferenza sul razzismo è già un triste spettacolo dell'impotenza dell'ONU a causa delle sue divisioni. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E passiamo ad un altro vertice internazionale di tutt'altro tipo, perché oggi è la giornata conclusiva del G8 dell'agricoltura a Cison di Valmarino, vicino a Treviso. È stata firmata la dichiarazione finale, ce ne parla in diretta il nostro inviato Paolo Piacenza. Sì, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Si è appena concluso qui a Cison di Valmarino, in provincia di Treviso, il primo G8 dell'agricoltura, summit organizzato dall'Italia, a cui partecipano anche i rappresentanti del G5, cioè Brasile, Cina, India, Messico, Sudafrica, i 3G3, cioè Argentina, Australia ed Egitto. Sentiamo cosa ha detto poco fa il ministro Zaia nella conferenza stampa finale del summit. I temi toccati, ormai avete avuto modo di apprezzarli, sono i temi della volatilità dei prezzi. Abbiamo avuto coscienza nelle nostre discussioni in questi 3 giorni che la volatilità dei prezzi dipende da molti fattori. Il primo fattore è quello della indisponibilità del cibo nel mondo. 6 miliardi di cittadini nel mondo non hanno tutti di che mangiare, che per sfamare i 6 miliardi di cittadini nel mondo bisognerebbe raddoppiare la produzione agricola, ma ricordiamo anche che con la fame del mondo dobbiamo ricordare ovviamente che 3 milioni di cittadini del mondo ogni anno muoiono di fame. Sì, la dichiarazione finale parte proprio dal problema della fame nel mondo. Gli 8 ammettono che l'obiettivo di dimezzare la popolazione entro il 2000, dimezzare la popolazione sottonutrita entro il 2015 è molto lontano. Fissano 13 punti che i ministri dell'agricoltura affidano ai capi di Stato e di Governo che si vedranno alla Maddalena a luglio. Il primo è appunto quello della fame nel mondo, di attuare tutti i mezzi necessari per realizzare l'obiettivo di dare a tutti il cibo, e poi l'obiettivo della sicurezza alimentare che deve diventare centrale per l'agenda internazionale, l'introduzione del principio della condanna della speculazione negativa, questa è una conquista diciamo dell'Italia che danneggia i mercati ricchi quanto le popolazioni povere, e poi anche la tutela delle non si afferma il principio che i mercati liberi devono essere difesi ma evitando la concorrenza sleale, un aggancio utile per tutelare la tipicità dei prodotti italiani, ancora il ritardo, il ritorno al protagonismo dei contadini, la tutela del lavoro delle donne, la biodiversità e così via. Adesso si sta svolgendo la conferenza con i giornalisti italiani del ministro Luca Zaia, qui da Cison di Valmarino è tutto. Grazie Paolo Piacenza, che ha seguito per noi i lavori del G8 dell'agricoltura. Passiamo alla politica italiana, Alessandra. Sì, perché oggi alle 16 scade il termine per presentare al Viminale i simboli dei partiti che correranno alle elezioni europee del 6 e 7 giugno. In diretta da Roma, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, l'appuntamento dunque per le 16, quando scadrà il termine per la presentazione dei simboli. Da ieri vi è la possibilità di depositarli presso l'apposito ufficio del Ministero dell'Interno. In tutto sono una sessantina i contrassegni per ora affissi al tabellone del Viminale, noti e meno noti. Quello del Partito Democratico figura al 17° posto e il simbolo del Popolo della Libertà al 58°. Per i grandi partiti la corsa non è tanto alla presentazione del simbolo quanto alla formazione delle liste, e non mancano le polemiche. Da ultima la candidatura dell'attuale sindaco di Bologna Cofferati, che si presenterà per il Partito Democratico nella circoscrizione nord-ovest. Critiche a Cofferati che oggi arrivano dal presidente della regione Piemonte Bresso, sempre Partito Democratico, intervenuta proprio a Radio 24. Sentiamo. Io ho solo fatto notare, ma l'ho fatto notare credo Chiamparino, Penati, tutti gli osservatori, che era un po' stupefacente che rinunciasse a candidarsi a Bologna perché voleva stare a Genova e poi accettasse un posto che obbliga ad essere, da un lato, per 4 giorni almeno a Bruxelles, e poi per il resto dovrebbe obbligare a seguire un collegio grande come le 4 regioni che dicevamo prima. Cioè c'è un rischio da pensionato di lusso, dice? Beh, questo rischio c'è, ma non riguarda solo Cofferati. La tendenza è il fine carriera. Vincenzo, tra i simboli c'è anche qualcosa di piuttosto curioso, no? Sì, è così. Come sempre ve ne sono numerosi che hanno poca attinenza con le forze politiche più rappresentative e che tuttavia ne richiamano colori e nome. Scorrendoli velocemente saltano agli occhi Italia dei Valori, italiani poca cosa, donne insoddisfatte e incomprese. I promotori di questi simboli sono personaggi comunque non nuovi alla disputa politica, come la promotrice del Sacro Romano Impero Liberale Cattolico, e poi diversi simboli che si rifanno alla Rivoluzione Francese, all'Impero Asburgico e agli autonomisti. Grazie Vincenzo Miglietta, naturalmente stiamo sorridendo perché alcuni di questi partiti, appunto alcuni di questi nomi sono veramente molto molto curiosi. Ne fonderemo uno anche noi, sì, Simone. Sì, chissà, e chissà se ci sarà un partito di X Factor, di questo che parliamo adesso. Eh sì, perché ieri c'è stata la finale, grande successo di ascolti con più di 4 milioni e 400 mila telespettatori, uno share di quasi il 23%, ha battuto la puntata conclusiva del reality La Fattoria, che invece è stata vista solo, per così dire, da 3 milioni e 850 mila persone. Qualcuno lo incorona nuovo Sanremo e il direttore di rete uscente Fabrizio Del Noce ha addirittura annunciato per il 2010 una collaborazione tra il festival e il talent show. E per gli addetti ai lavori è tempo per i primi bilanci positivi. Dopo un lungo percorso iniziato ad ottobre con i provini, X Factor ha saputo tener testa alla concorrenza del Grande Fratello e di Amici, registrando uno share medio del 14%. L'indice di gradimento e il riconoscimento di qualità gli sono valsi addirittura un Oscar della televisione e la finale su Rai 1, la rete Ammiraglia. A disputarsi l'ultima sfida un 38enne di Livorno, Matteo Becucci, 3 giovani della Valsugana, i Bastard Sons of Dioniso, e un bresciano di 23 anni, Yuri Magliolo. Una finale tutta al maschile che a colpi di cover, di inediti e di duetti con artisti celebri come Riccardo Cocciante, Elio Le Storie Tese e Gianluca Grignani si è conclusa con la vittoria del più anziano, Matteo. Se trovassi le parole, direi certo una bugia, ti direi che solamente colpa mia. Eliminato invece dal televoto Yuri. Smentiti i pronostici che davano vincente il rock trasgressivo dei 3 ragazzi della Valsugana, il pubblico ha preferito lo stile più tradizionale dell'impiegato toscano. Ma è pur vero che il televoto non sempre ci azzecca. Lo scorso anno Giusy Ferreri arrivò seconda dietro gli Aram Quartet, ma fu poi lei a scalare le classifiche. Per la gioia dei fan, il conduttore del talent show Francesco Facchinetti ha annunciato che la 3ª edizione di X Factor partirà il prossimo 14 settembre. Adriana Fracchi a GR24. Il Sole 24 Ore. Oh, e poi stasera ci sarà la finale di un altro reality, come il nostro tecnico Peter Bescapè, che è un appassionato, ci ricorda, che è quella del Grande Fratello. Naturalmente domani ne parleremo. Le 13 e 18 minuti nella prima parte del GR Extra Large abbiamo parlato del caso della nave bloccata fra Malta e Italia. Come sapete sono arrivati a Porto Empedocle i migranti e sta andando verso Lampedusa anche il cargo, visto che a quanto pare l'equipaggio sta male. Abbiamo parlato della conferenza ONU sul razzismo a Ginevra, Israele ha richiamato l'ambasciatore in Svizzera, abbiamo parlato del G8 dell'agricoltura a Treviso e della presentazione delle liste per le europee. Adesso ci occupiamo di terremoto. Di terremoto a iniziare dall'inchiesta, perché la procura dell'Aquila dovrebbe ascoltare alcuni dei responsabili delle strutture e diversi tecnici. In diretta dall'Aquila, Marcello Ianni. Sì, buongiorno. Innanzitutto, a 2 settimane esatte dal terremoto in Abruzzo, la terra qui continua a tremare. L'Istituto di Geofisica e Vulcanologia ha registrato 2 scosse nella notte. La prima di magnitudo 2.9 è stata registrata alle 3.20. Le località vicine all'epicentro sono state L'Aquila, San Panfilo d'Ocra e Fossa. La seconda di magnitudo 3.0 è stata avvertita dalla popolazione alle 4.22. Le località prossime all'epicentro sono state Scoppito, Pizzoli e L'Aquila. Sul fronte poi dell'inchiesta, la giornata di oggi si annuncia importante, soprattutto sulle responsabilità dei crolli. Gli investigatori dovrebbero ascoltare alcuni dei responsabili delle strutture tecnici. Saranno sentiti come persone informate dei fatti, ma non escluso, se emergeranno elementi di responsabilità a loro carico, che possano essere invitati a presentarsi accompagnati dagli avvocati. Gli accertamenti della procura sono focalizzati soprattutto sulla casa dello studente, su uno stabile di via 20 Settembre e sull'ospedale. Proprio qualche minuto fa il manager dell'ASL dell'Aquila, Roberto Marzetti, ha fatto il suo ingresso negli uffici provvisori della sezione di polizia giudiziaria dell'Arma dei Carabinieri. Ho chiesto io agli inquirenti di essere ascoltato, ha detto il manager, che ha annunciato la possibilità di una prossima apertura di alcuni reparti risparmiati dal devastante sisma. Per il procuratore capo della Repubblica i primi risultati dell'inchiesta si cominceranno a vedere tra 4 mesi. È un lavoro molto difficile, ha detto il procuratore. Con me lavorano 4 magistrati, ho chiesto che ci vengano dati dei pubblici ministeri applicati da altre procure. E proprio in questo momento anche il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, è entrato negli uffici della procura. Per il momento è tutto e dall'Aquila vi restituisco la linea. E grazie a Marcello Ianni per questi aggiornamenti. Nel frattempo si ragiona sulla ricostruzione e su questa lista dei comuni che sono stati inclusi all'interno dei comuni terremotati, appunto dei comuni colpiti dal terremoto. Una lista compilata dal sottosegretario alla Protezione Civile Bertolaso, ma naturalmente ci sono alcuni comuni esclusi che protestano. Sono 49 i comuni da aiutare, gli unici ad ora che avranno diritto alle misure di sostegno varate dal governo. La lista comprende i comuni che hanno risentito di un'intensità sismica MCS, calcolata cioè sulla scala Mercalli, pari o superiore al 6° grado. Dopo la pubblicazione dell'elenco, molti sindaci delle località escluse sono insorti, hanno avuto dei danni e vogliono la loro parte. Una corsa ai fondi a cui si è assistito anche in passato, dalla tragedia del Vajont sino al terremoto in Irpinia. Risultato? Aiuti allargati a dismisura e spesso a sproposito, a danno dei veri danneggiati dal sisma. Ma per l'Abruzzo non è la stessa cosa, come ci assicura Antonio De Crescenti, sindaco di Prato La Peligna, escluso dalla lista insieme a quello di Sulmone e ad altri 17 comuni della Valle Peligna, in provincia dell'Aquila. Non sono dell'idea che si stia verificando la stessa cosa di quanto avvenuto per esempio in Irpinia o in altri sismi del passato, perché noi non chiediamo di essere riconosciuti terremotatissimi come qualcuno pensa, noi chiediamo soltanto di farci riconoscere il giusto. Tanto per essere chiari, credo che il primo decreto dei 49 comuni ci sia una volontà dietro, cioè quella di limitare al massimo i comuni da risarcire, anche quindi la responsabilità del governo si restringe. Invece credo che comunque in maniera proporzionale tutti i comuni che dimostreranno di essere stati colpiti dovranno essere riconosciuti come tali. Punto. Ma il governo forse qualche passo indietro lo sta facendo. Già Guido Bertolaso ha annunciato un parziale, moderato ampliamento della lista, mentre Maurizio Pelosi, sindaco di Capitignano, che aveva minacciato le dimissioni insieme ai colleghi di Montereale e Cagnano Miterno, sono stati comunque assicurati aiuti. Dottor De Bernardini, vice di Bertolaso in definitiva, lui ci ha assicurato che i 49 comuni sono quelli della ricostruzione, la terza fase, mentre nella fase di emergenza sono ricompresi tutti i comuni, i comitati operativi mobili, e ci ha lasciato questa via d'uscita. Roberta Pellegatta, GR24, il Sole 24 Ore. E oggi sono state riaperte alcune scuole nelle zone terremotate, quelle naturalmente non danneggiate, erano presenti anche i tecnici della Protezione Civile per rassicurare insegnanti, allievi e genitori, dalla scuola all'università. Sì, perché questa mattina in una tendopoli ci sono state le prime discussioni di laurea, insomma i primi laureati del post-sisma. Sentiamo la preside della Facoltà di Medicina, Maria Grazia Cifona, intervenuta questa mattina, 24 mattino, al microfono di Alessandro Milan. Sono le lauree abilitanti all'esercizio della professione in fisioterapia. speriamo di averli tutti presenti, coloro che sono in condizione di laurearsi, sono 34, purtroppo uno di loro non ci sarà, ma lo vogliamo ricordare, aveva completato tutti gli esami, era un passo dalla laurea, uno dei ragazzi più entusiasti che avevamo, anche uno dei più educati, più studiosi, quindi abbiamo predisposto, vuol dire l'ho fatto io stessa, un diploma in pergamena da consegnare al suo papà che sarà qui. Passiamo a parlare del tema del lavoro e della crisi, perché a suscitare dibattito in queste ore è stata la proposta del ministro del welfare Maurizio Sacconi, che ha rivolto un appello alle imprese chiedendo una vera e propria libera e responsabile moratoria ai licenziamenti. La discussione, come si diceva, prosegue. Fa discutere il mondo del lavoro l'appello del ministro del welfare Sacconi, che ha chiesto alle imprese una moratoria dei licenziamenti, ricorrendo piuttosto, per fronteggiare la crisi, a cassa integrazione e contratti di solidarietà. Una proposta che piace al segretario generale della UIL, Luigi Angeletti. Avevamo anche noi proposto che le aziende, almeno per un certo periodo di tempo, non licenziassero e rinnovassero i contratti a termine. Ovviamente questa scelta dovrebbe essere sostenuta da un'azione concreta dello Stato, per non limitarsi ad essere esclusivamente un appello, e dovrebbe essere sostenuta con un bonus riducendo i contributi previdenziali, che sono un costo per le imprese significativo. Per le imprese, a rispondere all'appello di Sacconi è Giuseppe Morandini, presidente della piccola industria di Confindustria. Noi come Confindustria abbiamo sempre condiviso qualsiasi proposta che va nell'ottica di una flessibilità del rapporto di lavoro in un momento di crisi così grave, però prima di dare un giudizio vogliamo che questa proposta venga ben articolata. Di nostro, senz'altro avremmo preferito parlare di un prolungamento dei tempi della cassa integrazione, compatibilmente col momento difficile, anche prevedendo e sperando in pronti segnali di inversione di tendenza. Credo che lo strumento della cassa integrazione sia lo strumento migliore per gestire questo passaggio. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sempre a proposito di lavoro e di licenziamenti, in Francia è stato raggiunto un accordo fra aziende e sindacati alla Caterpillar. È diventata nota dopo che un gruppo di lavoratori aveva bloccato negli uffici i dirigenti proprio per protestare contro i tagli annunciati. La linea dura della protesta operaia sembra essere pagante in Francia. I dipendenti di Caterpillar, che nelle settimane scorse avevano sequestrato in fabbrica per 24 ore alcuni dirigenti, sono stati ricevuti domenica al Ministero dell'Economia. La mediazione del governo francese, posta come condizione per liberare l'azienda che nel frattempo era stata occupata, ha permesso il raggiungimento di un accordo con la direzione del gruppo. Ci saranno meno licenziamenti, 600 invece dei 733 previsti inizialmente, maggiori indennità di disoccupazione e fondi per la formazione professionale. Più o meno gli stessi risultati ottenuti dalla filiale francese della società britannica Scapa Adesivi Industriali, anch'essa teatro di un sequestro lampo di dirigenti e i cui dipendenti hanno strappato, oltre a migliori indennità di licenziamento, il pagamento dei giorni di sciopero. A Sony France, dopo aver bloccato i manager in fabbrica, queste indennità sono state portate a un minimo di 45.000 euro, maggiorate di una mensilità di stipendio per ogni anno di anzianità aziendale. Passata l'ondata dei sequestri, negli stabilimenti di Caterpillar e Toshiba, ad esempio, si è tornati ai picchetti e all'occupazione, comunque segno di una deriva pericolosa. Attilio Geroni, GR24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Era l'autore di Crash e dell'Impero del Sole, ma è stato anche e soprattutto un grande maestro della fantascienza. È morto a 78 anni lo scrittore inglese James G. Ballard, dove la G sta per Graham. Marta Cagnola ne ha parlato con Silvio Sosio, fondatore e direttore del portale fantascienza.com. Ballard è diventato famoso al grande pubblico con il romanzo L'Impero del Sole, perché Spielberg ne ha tratto poi un film di successo, ma Ballard ha avuto una grandissima importanza soprattutto nel campo della fantascienza fin dagli anni 60. È stato l'autore che ha teorizzato, diciamo, lo spazio interno. Che cosa si intende per questo? Si intende utilizzare le forme della fantascienza, quindi le catastrofi, i viaggi nello spazio, questo tipo di argomenti, per parlare della psicologia degli esseri umani. Questo ha condotto la fantascienza verso nuovi livelli narrativi. Anche autori, per esempio, come Philip K. Dick o William Gibson, diciamo, devono moltissimo a questa rivoluzione inglese, di cui Ballard è stato uno dei principali promotori, anche se non l'unico. Lui aveva anche un risvolto di critica, di satira sociale, così? Sì. senza dubbio, la fantascienza negli anni 50 aveva già sviluppato discorsi sociali sulla pubblicità, sulla sovrapposizione, tutta una serie di tematiche che poi ritroviamo anche in Ballard. Se noi dovessimo consigliare agli ascoltatori un libro per avvicinarsi a Ballard, da cosa potrebbero cominciare? I romanzi principali di fantascienza sono la quadrilogia cosiddetta degli elementi, quattro romanzi catastrofici, Deserto d'acqua, in cui lui immagina che la terra sia alluvionata, poi abbiamo Vento dal nulla, in cui questo grande vento distrugge tutti gli edifici sulla terra, Foresta di cristallo e Terra bruciata. Però nella produzione di Ballard è molto importante anche la narrativa breve, quindi i racconti, che sono stati pubblicati recentemente da Fanucci in tre o quattro volumi. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Il caso della nave bloccata fra Malta e Italia, arrivati a Porto Empedocle i migranti soccorsi dalla nostra marina militare. Bruxelles ringrazia l'Italia ma chiede maggiore solidarietà europea. Israele, la più orribile manifestazione di razzismo, così dice il presidente iraniano Ahmadinejad nell'incontro col suo omologo svizzero. Israele intanto richiama l'ambasciatore a Berna, conferenza dell'ONU a Ginevra sul razzismo dimezzata. Il dopoterremoto in Abruzzo, nuova giornata di interrogatori, riaprono le scuole non danneggiate. C'è stata la prima sessione di laurea in una tendopoli. Al via a Milano questa mattina il processo contro i baristi accusati di aver ucciso un ragazzo nero che aveva rubato dei dolci. I due hanno chiesto scusa. Abbiamo parlato nella prima parte del GR Extra Large della conferenza dell'ONU sul razzismo definita Durban 2, visto che la prima fu fatta nella città sudafricana di Durban nel 2001. Ebbene, ci sono aggiornamenti di poco fa e riguardano le parole di ieri del presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, che ha definito Israele la più orribile manifestazione del razzismo. Lo sentivate già nei nostri titoli durante un incontro avuto ieri sera a Ginevra con il presidente svizzero Hans Rudolf Merz. Ahmadinejad, aggiunge l'agenzia, ha sottolineato anche la politica di due pesi e due misure sui diritti umani e la violazione degli stessi diritti umani negli Stati Uniti e in Europa. Già il solo fatto di far avvenire questo incontro appunto fra il presidente svizzero e il presidente iraniano aveva spinto Israele questa mattina a ritirare il proprio ambasciatore a Berna per appunto delle consultazioni. Vedremo dunque quali saranno i prossimi passi diplomatici da parte di Israele nei confronti della Svizzera. Ci sono molti paesi, come dicevamo, che non ci sono gli Stati Uniti, Israele naturalmente, l'Australia, l'Olanda e la stessa Italia si sono rifiutati di andare, tra l'altro non ci è andata nemmeno la Germania. Marta Dassù, direttore di Aspenia, buongiorno. Buongiorno. Allora, che senso ha una conferenza dell'ONU sul razzismo decimata in questa maniera, insomma? Ma io credo che non avesse senso di per sé un Durban 2. Perché la prima conferenza Durban di 8 anni fa, dominata appunto dalla condanna di Israele, fu un totale fallimento, venne abbandonata in mezzo ai lavori dalla delegazione americana e così via. Quindi l'idea di fare un seguito di quella prima conferenza secondo me era comunque una ricetta per il fallimento, e così è stato, perché tutta la mediazione sul comunicato finale si è arenata proprio nel fatto che questo nuovo documento richiama comunque le conclusioni di quello vecchio e quindi era inaccettabile, io credo giustamente, per i paesi che hanno deciso di boicottare. Ma allora, secondo lei, perché le Nazioni Unite hanno deciso lo stesso di fare questa conferenza? Perché le Nazioni Unite sono l'organismo che conosciamo, cioè sono un organismo molto, molto vasto, sono ormai circa 200 paesi dai 51 che erano inizialmente, è un gruppo molto eterogeneo in cui la parte che condivide realmente la valutazione sui diritti umani è in fondo abbastanza ristretto, e c'era in fondo una filosofia originaria che era molto più legata in questo caso alla vicenda sudafricana, alla lotta contro l'apartheid eccetera. Questa filosofia originaria si è totalmente persa, è una questione che è stata in qualche modo fatta prigioniera dello scontro fra mondo islamico e Israele, si è quindi estremamente politicizzata e a questo punto, a mio modo di vedere, ha davvero perso significato. Qualcuno dice che questa conferenza si è, diciamo, spostata come peso in favore dei paesi islamici, per esempio non si fanno molti riferimenti ai diritti delle donne o ai diritti per esempio degli omosessuali, il fatto che poi molti paesi occidentali si siano sfilati naturalmente rafforza questa ipotesi, secondo lei è così? Ma sì, appunto, uno dei, insieme alla condanna di Israele all'equiparazione fra sionismo e razzismo, un altro dei punti controversi era appunto l'impossibilità di diffamare la religione voluta appunto dai paesi islamici, che significava per i paesi europei e anche per gli Stati Uniti una limitazione della libertà di espressione. Qua nel comunicato finale, nei lavori preparatori, qualche progresso è stato fatto, ma non del tutto. Comunque questo è certamente uno dei punti importanti e molto rilevanti. E grazie a Marta Dassù dell'Aspen Institute, scusate, direttore di Aspenia, per essere stata con noi. Buona giornata. Grazie. Giulia Crivelli, giornali stranieri in edicola oggi. Naturalmente non parliamo di Durban 2, ne abbiamo parlato a sufficienza finora. Iniziamo invece parlando del realismo francese negli affari, che vuol dire? La realpolitik alla francese, nel senso che sappiamo che insomma l'anno scorso ci sono stati parecchi così disaccordi a livello politico, innescati dalla questione del Tibet, ma dei diritti umani in generale. Oggi Le Figaro, tra Francia e Cina, oggi Le Figaro apre dicendo: la Cina ha di nuovo aperto alle imprese francesi. La Cina è naturalmente la speranza per tutti, no? Soprattutto in questo momento così difficile. L'Eseco spiega per esempio proprio oggi che per l'industria dell'automobile la Cina è la nuova speranza, l'unica speranza forse in questo momento. Ebbene, Sarkozy all'ultimo G20 ha approfittato anche per riavvicinarsi a Hu Jintao, e ora il ministro dell'economia francese Anne-Marie Idrac, che è il segretario di Stato per il commercio estero, un po' come farebbe Urso se fosse nella stessa posizione, è andata alla Davos francese, che si è tenuta a Boao, e ha un po' ricucito tutte queste grandi possibilità che ci possono essere per le imprese francesi in Cina, e così insomma potrebbe naturalmente da questo arrivare una grande spinta all'economia. Giulia, a proposito di francesi, l'Economist ne parla di quel che succede oltre Alpe. Sì, il fenomeno Sarkozy naturalmente è molto interessante, è stato studiato come politico che ha un po' rotto con il passato ed ha vinto con grande successo di pubblico le ultime elezioni. Poi la sua popolarità ha cominciato a scendere, ha fatto alcuni errori forse agli occhi di chi lo aveva votato, sicuramente agli occhi di chi non lo aveva votato, c'è stata la crisi economica. L'Economist analizza un po' tutto questo e dice: forse è lo stesso Sarkozy a questo punto, che ha una personalità così forte, un ego così forte, lo vediamo quando fa questi discorsi molto, che cerca insomma di essere un trascinatore, e forse è lo stesso Sarkozy a questo punto a stupirsi del calo di popolarità, perché in effetti i sondaggi, così come qui, danno per esempio una costante ascesa di Berlusconi. In Francia c'è una costante perdita di popolarità. Secondo l'Economist naturalmente ci sono alcune cose che dovrebbe rivedere, a partire dal modo di comunicare, forse un po' troppo aggressivo in questi tempi, e forse dovrebbe attuare forse più una strategia di dialogo con l'opposizione, perché sennò si va allo scontro sugli scioperi, sulla questione internet anche, che è stata una grande battaglia di Sarkozy, ma che ovviamente ha portato proprio a dividere un po' in due il paese, e questa divisione in due è esattamente quello che non si vorrebbe mai idealmente, perché poi il muro contro muro non porta a niente di buono in nessun campo. E Giulia, che cosa hai scelto invece dal Financial Times? Allora, Financial Times è una cosa che tra l'altro in Italia forse noi ne avevamo già parlato proprio sul nostro giornale, sul Sole 24 Ore, ed è questo effetto diverso sugli uomini e sulle donne della crisi in senso di perdita di posti di lavoro. Il dato adesso è riferito agli Stati Uniti, negli Stati Uniti sono molti di più gli uomini che hanno perso il lavoro rispetto alle donne per questa crisi. Il problema naturalmente è che in generale gli uomini vengono pagati di più anche nei civilissimi Stati Uniti, e quindi è forse più conveniente, tra 4 virgolette se possibile, licenziare un uomo che non una donna, e poi forse che comunque sono meno flessibili, poi naturalmente che sono magari in posti di maggiore responsabilità o a livelli manageriali, che sono poi i livelli più alti, che in questo momento sono anche stati tagliati sempre per una ragione di costi. Sta di fatto però che in questo momento a soffrire di più di questi tagli con l'accetta proprio nelle grandi aziende sono gli uomini. Allora, Giulia, all'inizio della nostra rassegna stampa abbiamo parlato di Sarkozy e anche delle sue gaffe. Veniamo all'oggetto di una delle sue gaffe, ossia il premier spagnolo Zapatero. Lo ricordiamo, nei giorni scorsi l'aveva definito un po' stupido, mi sbaglio, una cosa di questo genere. Sì, sono delle, un po' delle intercettazioni. Tra l'altro l'Eliseo ha smentito molte di queste cose. Insomma, non sapremo mai se veramente sono state dette quelle cose. Fatto sta che naturalmente è la tipica notizia che, al di là di quanto orgoglioso può sentirsi un popolo, dà molto fastidio quando si sente dire che il proprio primo ministro è poco intelligente, e così è stato detto appunto da Sarkozy di Zapatero. In realtà i giornali spagnoli se ne sono occupati, c'è poi Ségolène Royal che addirittura ha chiesto scusa, ma Ségolène Royal è rappresentante dell'opposizione, quindi non starebbe a lei chiedere scusa, però insomma è naturalmente un'opportunità per l'opposizione di dare addosso a Sarkozy. Ma invece i giornali spagnoli si occupano di cose un pochino più serie, diciamo, e per esempio l'Avanguardia parla di questa nuova misura di Zapatero. Anche la Spagna ha una struttura industriale simile alla nostra, cioè con molte piccole e medie imprese, che sono quelle che soffrono di più, soprattutto perché manca il credito delle banche, e quindi Sarkozy ha predisposto questa linea di credito da 3 miliardi di euro per aiutare le PMI. Quindi, sì, diciamo, non Sarkozy naturalmente, ma Zapatero, capisco che adesso inizia a girare un po' di confusione. Grazie anche per oggi, Giulia Crivelli, ti ritroviamo domani, grazie. E sentiamo ora dove ci porta il nostro gastronauta, quest'ora viene sempre un certo appetito, il nostro gastronauta Davide Paolini per la pausa pranzo. Mezzogiorno di Cuoco oggi vi porta dove si assaggiano dei toast, perché sicuramente a mezzogiorno sarebbe importante trovare in qualche locale un buon toast di una volta, oggi quasi operazione impossibile. Io vi darò alcune indicazioni, per esempio a Milano alla pasticceria San Carlo, e poi ancora in giro per l'Italia laddove c'è Panino Giusto, addirittura Panino Giusto offre tre tipologie di toast. E poi ancora, se vi passa di trovarvi in Veneto, magari all'uscita dell'autostrada a 90 di Piave, c'è un albergo che si chiama Omni Hotel. Ebbene, in questo Omni Hotel, incredibile ma vero, al bar dell'albergo si mangia veramente un eccellente toast. Le 13:46 minuti, 10 secondi, parliamo di cronaca giudiziaria adesso. Sì, è iniziata questa mattina al Palazzo di Giustizia di Milano l'udienza per l'omicidio di Abdul Salam Ghibri, il giovane 19 anni di colore italiano, di origini appunto straniere, era stato ucciso il 14 settembre da due baristi. Per saperne di più ci colleghiamo con Giovanni Capuano. Sì, buongiorno, ed è stata una giornata che ha avuto anche momenti di tensione, quella che si è vissuta al settimo piano del Tribunale di Milano, dove davanti al GUP Nicola Clivio vengono processati per rito abbreviato i due baristi Fausto e Daniele Cristofoli, padre e figlio, che uccisero all'alba del 14 settembre scorso Abba, sospettandolo di aver rubato insieme ad alcuni amici l'incasso del loro locale. In realtà il gruppo aveva prelevato solo due pacchetti di biscotti e due barrette di cioccolato. Gli amici di Abba raccontarono poi di insulti razzisti pronunciati al momento dell'aggressione. Nei giorni successivi ci furono numerose proteste da parte di gruppi di immigrati a Milano, proteste che si sono ripetute anche oggi nei corridoi sbarrati del tribunale presidiato dai carabinieri. In aula i due baristi, attraverso il legale, hanno presentato le loro scuse ai familiari di Abba, dolore e rammarico, le parole usate verso i genitori, parole cui i genitori della vittima, secondo quanto raccontato dai presenti, hanno risposto con atteggiamento decoroso. Ai due imputati, lo ricordiamo, il pubblico ministero contesta l'omicidio volontario aggravato da futili motivi ma non dall'odio razziale. Oggi i difensori hanno chiesto che questa accusa venga derubricata in omicidio preterintenzionale. Con il rito abbreviato, se condannati, i due otterranno lo sconto di un terzo della pena. Nella giornata di oggi ci sono state le deposizioni dei medici legali che hanno effettuato l'autopsia sul corpo di Abba. Sono testimonianze fondamentali, perché ancora non si è giunti a un'unica ricostruzione di quanto accadde. Si sa però che i due baristi stanno vendendo casa per raccogliere una somma da devolvere ai familiari di Abba, per alleggerire anche la propria posizione processuale. È tutto, linea allo studio. Grazie Giovanni Capuano per questi aggiornamenti. Abbiamo parlato, Alessandra, molto di Israele in questa edizione in merito alla conferenza delle Nazioni Unite sul razzismo, ma ci sono anche i problemi interni dello Stato ebraico. Sì, il passo indietro del premier israeliano, del neo premier Netanyahu, per riprendere i negoziati di pace, un po' un argomento che all'attenzione di tutti i principali quotidiani arabi oggi in edicola. Sentiamo Adib Fateli. L'annuncio del premier israeliano Benjamin Netanyahu di essere pronto ad impostare negoziati di pace con i palestinesi senza condizioni preliminari è al centro dell'attenzione della stampa araba di oggi. Per Ashar Khalawat si tratta del primo passo indietro deciso dal governo di destra grazie alle pressioni della Casa Bianca, che non accetta di condizionare la ripresa delle trattative al riconoscimento dei palestinesi dell'ebraicità dello Stato di Israele. La nomina di un arabo come consigliere del falco Lieberman e la proposta dell'alleato di governo, il laborista Barak, per una soluzione sulla base del principio dei due Stati è vista dai principali giornali come forti segnali per un cambiamento di rotta degli israeliani. Adi Fatah Ali, GR 24, Il Sole 24 Ore. Ci spostiamo ora negli Stati Uniti. Oltre 25.000 partecipanti per quella che è considerata la più antica maratona dell'era moderna. Parliamo della Maratona di Boston, che si corre oggi alle 16 ora italiana. A prendervi parte anche molti nostri connazionali. Ne abbiamo intervistato uno davvero particolare, Fabio Schiantarelli, 58 anni, laureato alla Bocconi, docente di economia al Boston College, alla sua quinta Maratona di Boston. Sentiamolo al microfono di Dario Ricci. La maratona di Boston, secondo me, è la più bella al mondo. In qualche senso è la nonna delle maratone, perché si fa continuativamente dal 1897. Uno, dopo averla fatta, non può che decidere che è la maratona più calorosa del mondo. Tanti appassionati che arrivano da tutto il mondo, immagino anche una foltissima pattuglia italiana. Sì, c'è sempre una forte pattuglia italiana di alcune centinaia di persone che arrivano, 20 di questi io li ho incontrati. Di solito gli italiani fanno abbastanza bene perché, contrariamente agli Stati Uniti, dove il correre è diffuso e per cui c'è gente che corre a buone velocità, ma anche che gente che corre per passione a velocità lente, i podisti italiani tendenzialmente tendono ad essere di livello medio-alto, sono più seri e per cui vanno abbastanza bene, non sono al top, però si comportano in maniera molto onorevole. Maratona che è posizionata in un momento del calendario sportivo bostoniano particolarmente ricco, perché playoff dell'hockey, playoff NBA con i Boston campioni in carica che devono difendere il titolo, inizio della stagione del baseball, non a caso ai grandi media americani parlano di busy sport weekend in Boston. Hanno assolutamente ragione. La differenza tuttavia tra la maratona e gli altri eventi è che la maratona rappresenta la partecipazione attiva allo sport invece di una partecipazione passiva. 25.000 persone che la fanno in maniera attiva è un numero assolutamente eccezionale. Ed è forse meglio avere 25.000 persone che corrono che 25.000 persone seduti negli stadi. Rapido riepilogo delle principali notizie della giornata. In primo piano il caso della nave bloccata fra Malta e Italia, arrivati a Porto Empedocle i migranti soccorsi dalla nostra marina militare. Bruxelles ha ringraziato l'Italia ma ha chiesto anche maggiore solidarietà europea. La conferenza dell'ONU a Ginevra, la conferenza sul razzismo è di fatto dimezzata visto le tante defezioni. Nel frattempo il presidente iraniano Ahmadinejad nell'incontro col suo omologo svizzero ha detto: Israele è la più orribile manifestazione di razzismo. Lo Stato ebraico ha così richiamato l'ambasciatore a Berna. Il dopo terremoto in Abruzzo è stata una nuova giornata di interrogatori in procura. Hanno riaperto le scuole non danneggiate, prima sessione di laurea nelle tendopoli. Al via a Milano il processo contro i baristi accusati di aver ucciso un ragazzo nero che aveva rubato dei dolci. I due hanno chiesto scusa. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. Con in regia Peter Bescapè, al coordinamento Maria Piera Ceci. Prossimo GR alle 15, noi ci risentiamo domani alle 13. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.